questa sera, non sentirti ladro se tu hai preso me. Era bello un bacio dato un po' da soli, non mi aspettavo davvero che eri troppo uomo. Guarda.